Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no. Non fermarsi mai. Allora, buongiorno e buon lunedì 10 marzo a tutti e tutte, ore 12:15, anzi e 16, cominciamo questa nuova trasmissione di Corrispondenze Operaie. Festeggiamo oggi la 151esima puntata, perché noi siamo così un po' diversi, non festeggiamo la 150esima, ma appunto quella successiva, per cui un saluto a Dario che fino a mo aveva condotto questa trasmissione. E cominciamo, ma prima diamo un po' di numeri per sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Lo si può fare al conto corrente postale 618-04-001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsce 56-00185, Roma. Allora, introduco molto brevemente la trasmissione di oggi. Oggi abbiamo deciso di fermarci un attimo sui collegamenti, gli aggiornamenti con vertenze o lotte aperte da lavoratori e lavoratrici in tutta Italia, perché vogliamo analizzare un attimo la situazione, che cosa comporta l'accordo sulla rappresentanza del 10 gennaio di questo anno, del 2014, e per farlo abbiamo contattato e avremo in collegamento oggi alcune persone per cercare di offrire uno spettro più ampio possibile, appunto, su che situazione si è venuta a creare. Il primo collegamento è Carlo Guglielmi, un giuslavorista del Forum Diritti per il Lavoro, e in seguito sentiremo una delegata della FIOM di Susegana dell'Electrolux. Con Guglielmi, con il giuslavorista chiaramente affronteremo un po' gli aspetti più tecnici sia delle relazioni industriali che di cosa comporta questo accordo sulla rappresentanza. Con la delegata FIOM dell'Electrolux magari invece andremo a capire che cosa comporta per loro, per la loro lotta, per la loro vertenza, appunto, questo accordo. E infine sentiremo Marco, lavoratore dell'ACI Informatica, per fare un ragionamento un po' più politico e appunto ampliare ancora di più lo spettro. Chiaramente ricordiamo che i telefoni sono aperti a contributo degli ascoltatori e degli ascoltatrici. Chiaramente il tempo che abbiamo a disposizione non è tantissimo, abbiamo già stabilito appunto tre collegamenti, per cui ci scusiamo se non riusciremo magari a dare voce a tutti e a tutte. Per cui ora passo la parola a Mirko. Sì, allora buongiorno a tutte e tutti. E allora, dunque, prima di introdurre l'accordo della rappresentanza di questo gennaio 2014 è opportuno fare un breve excursus storico, diciamo, partendo appunto dagli anni 90, perché segnano un passaggio particolare, diciamo, per le relazioni industriali, per il sistema lavoro nel nostro paese. Infatti, proprio a seguito della crisi degli anni 80, diciamo, da parte padronale c'è stato un tentativo di regolamentazione appunto delle relazioni industriali, che diciamo tendenzialmente ha preso delle direzioni molto particolari, perché diciamo questo in particolare con l'accordo del 93 si è teso prima di tutto, diciamo, a ridefinire i rapporti tra le parti sociali, appunto le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro, ed il governo in particolare, introducendo il principio della concertazione come forma di mediazione tra le parti. Poi si è diciamo passati a una ridefinizione della struttura contrattuale, in particolare introducendo, diciamo, il duplice livello contrattuale tra il contratto aziendale e il contratto nazionale di categoria, appunto, dove il secondo comunque in alcuni punti poteva derogare diciamo il contratto nazionale. Poi negli anni successivi, comunque, con i diversi accordi si è definita ancora di più la materia di competenza del doppio livello, diciamo, di entrambi i livelli di contrattazione. La terza direzione, appunto, invece, che sin dagli anni 90 diciamo, è iniziata ad emergere all'interno delle relazioni industriali del nostro paese, eppure è appunto quella sull'indicazione legislativa in materia di rappresentanza. In particolare, con l'accordo del 93 viene inserito, diciamo, l'RSU in sostituzione alle rappresentazioni rappresentanze sindacali e aziendali, vengono sostituite appunto con queste rappresentanze sindacali unitarie, all'interno delle quali partecipavano per 2/3 i rappresentanti per elezione diretta, 1/3 invece era, diciamo, riservato alle organizzazioni firmatarie del contratto nazionale. Diciamo, lungo queste tre direttrici nel decennio 90 e nel decennio successivo del 2000 si è andato sempre più istituzionalizzando una forma, diciamo, di allontanamento appunto del conflitto dai luoghi di lavoro, appunto, che tende comunque allo spegnimento totale del conflitto, e ne abbiamo avuto dimostrazione effettiva comunque negli ultimi anni, in particolare dopo la crisi economica del 2008. Il primo tentativo è stato appunto quello di Pomigliano, della Fiat di Pomigliano, e diciamo l'azione di Marchionne, che appunto uscendo dalla Confindustria diciamo ha potuto passare ad una contrattazione tipo aziendale, derogando di fatto al contratto nazionale metalmeccanici per alcune norme, alcune cose in particolare, diciamo. Dopo questo accordo di Pomigliano nel 2011 arriva, diciamo, un passaggio importante per quanto riguarda appunto questa ridefinizione dei rapporti, perché con l'articolo 8, il decreto legge, diciamo, del 2011, l'articolo 8, di fatto la ridefinizione del conflitto e la riduzione del conflitto, nonché la ridefinizione, diciamo, delle competenze dei contratti, e quindi diciamo, le norme e gli spazi di deroga appunto alla contrattazione nazionale iniziano a essere sempre più definiti. In particolare con l'articolo 8 diciamo si istituzionalizza la deroga ai principi normativi, essendo l'articolo 8 appunto un decreto legge, permette appunto di derogare tramite contrattazione aziendale alcuni principi fondamentali, come ad esempio alcuni definiti nell'articolo 18. Diciamo l'unica eccezione sarebbe per quanto riguarda i licenziamenti discriminatori, appunto. Però questo articolo 8 è stato un passaggio fondamentale che introduce, diciamo, questi ultimi anni, in particolare questo nuovo accordo, il testo unico della rappresentanza del 10 gennaio. Dunque passo invece la parola adesso a Leonardo, che magari ci spiegherà meglio questo articolo e i successivi cambiamenti. Salve a tutte e a tutti. Allora, come si è sentito dall'introduzione fatta da Mirko, noi stiamo cercando di inquadrare l'accordo sulla rappresentanza del gennaio 2014 nel più generale processo di ristrutturazione delle relazioni industriali che è avvenuto in Italia, diciamo, a partire dagli anni 90. Questo processo di ristrutturazione delle relazioni industriali ha avuto come, diciamo, caratteristica principale il tentativo di smantellamento del contratto collettivo nazionale e il suo depotenziamento. Diciamo in un certo senso che l'accordo del gennaio 2014 sulla rappresentanza va oltre anche questo già depotenziamento ufficiale che c'è del contratto collettivo nazionale. Ricordiamo, il contratto collettivo nazionale rappresenta una conquista del movimento dei lavoratori degli anni 70, in quanto oltre a garantire stesso salario a stesse mansioni in tutto il contesto nazionale, permetteva anche a quei lavoratori che erano presenti in fabbriche in cui magari erano in minoranza, permetteva di dare loro forza nelle trattative che si andavano a sviluppare sul contesto nazionale, appunto. Quindi agli anni 90, come ha detto Mirko, c'è stato un via via degli accordi interconfederali, delle leggi che hanno sempre di più smantellato il sistema di contrattazione collettiva, arrivando appunto all'accordo del gennaio 2014. Questo accordo da un lato ufficializza il fatto che i contratti aziendali possono contenere delle deroghe peggiorative al contratto collettivo, dandolo per scontato. Dall'altro è una sorta di esclusione preventiva di altri sindacati, in quanto i sindacati o accettano le regole del gioco e quindi non possono adottare azioni di conflitto ai contratti già siglati, in quanto sarebbero sanzionati con pene sia di carattere economico ma anche di altri tipi, ma dall'altro appunto, come è stato detto, ufficializza un po' questo passaggio al fatto che i contratti aziendali possono contenere delle condizioni di lavoro peggio, in senso peggiorativo, rispetto al contratto collettivo. Noi adesso siamo in collegamento, come ha detto Francesco, con un gius lavorista, Carlo Guglielmi, del Forum Diritto del Lavoro. Carlo, ci senti? Sì, sono con voi. Perfetto. Allora, noi volevamo iniziare un pochino questa prima intervista partendo da un punto che rappresenta l'articolo 8 del decreto legge del 13 agosto 2011 numero 138, fatto dal governo Berlusconi. Questo secondo noi rappresenta un pochino, è un esempio, diciamo, rappresenta il culmine di questo processo che ha permesso appunto diciamo il depotenziamento del contratto collettivo. Ci potresti un po' spiegare di che cosa tratta questo articolo e se condividi questa impostazione? Certo, per farlo però mi vorrei brevemente ricollegare all'ottima introduzione che ha fatto Mirko, perché diciamo, per comprenderlo va messo dentro quel percorso. Allora, e che poi ci aiuta molto anche a capire di cosa si tratta relativamente all'ultimo accordo, quello del 10 gennaio 2014. E cioè, partendo proprio dal 1992-93, non a caso anche quello un periodo di crisi, che sono sono sempre i periodi, come dire, ottimali per le ristrutturazioni sociali. Diciamo lì, come dire, lo spiega bene, lo spiegava bene Trentin in un'intervista fatta dal movimento, dall'archivio del movimento operaio, dicendo: a quel tavolo si capiva che il problema della Confindustria non era sterilizzare quel poco che era rimasto della scala mobile, ma era quella di risucchiare il conflitto dalle aziende a un tavolo unico nazionale di ragionevolezza, cioè la concertazione. Questo è importante da dire, perché fino ad allora la contrattazione, come dire, decentrata, territoriale, era una contrattazione tutta acquisitiva, quindi era un problema per i padroni, nel senso che quello che si faceva nei territori era di più rispetto a quanto prevedeva il contratto collettivo. Ecco perché andava inchiodato al tavolo della concertazione nazionale. Dopodiché questo è durato circa un decennio, ma con il primo Berlusconi ha cominciato a venire, si è uscito, diciamo, in alto a destra dalla concertazione invece che a basso a sinistra, e quindi, per usare le parole di Sacconi, si è spostato il baricentro dal centro al territorio. Questo che cosa significava però? Significava che ovviamente nel territorio non si andava più ad aggiungere, ma si andava a togliere. E quindi, mentre prima c'era un tavolo unico che quindi in qualche modo consentiva un pochino di democrazia, un pochino di conflitto, perché era poi sterilizzato dalla concertazione, quando io devo spostarlo sui territori e togliere i diritti, mi devo porre il problema, io padrone e io governo di padroni, di togliere possibilità di democrazia e di conflitto. Ecco perché nel corso, diciamo, del primo decennio degli anni 2000 si è posto questo problema, cioè lo spostamento sul territorio ha significato nuove regole che togliessero democrazia e togliessero capacità di conflitto. Dentro questo gioco è arrivato l'accordo interconfederale del 28 giugno del 2011, che è stato fatto dopo che la CGIL per 8 anni non aveva mai firmato nessun accordo con le altre due associazioni, non perché fosse in particolare disaccordo, ma perché la presenza fisica di Berlusconi per motivi politici glielo impediva. E lì, scommettendo sul fatto che lo si riteneva già morto, è stato fatto il famoso accordo del 28-11, che è il primo che ufficializza, adesso è ripreso nel 10 gennaio, ma il primo che ufficializza proprio questo, cioè le specifiche intese modificative a livello aziendale dei contratti nazionali in peggio, con efficacia, si dice, erga omnes, cioè per tutti i lavoratori dell'azienda, anche quelli ovviamente non iscritti ai sindacati che lo hanno stipulato. Su questo è intervenuto Berlusconi, perché ovviamente avevano fatto mali conti, come dire, non vedevano l'ora di mettersi nel letto ancora caldo di Confindustria dopo la morte di Berlusconi, ma Berlusconi non era ancora morto, e quindi a metà agosto, con il decreto legge 138 del 2011, che cosa ha detto? Ah sì? Voi potete, voi fate modificare in peggio i diritti diciamo dei contratti collettivi, quindi i diritti previsti contrattualmente, io vado oltre, consento di modificare anche i diritti di legge. E quindi che cosa succede? Succede che ben può essere da quella data che un comportamento assolutamente illegittimo, come un contratto a termine malfatto, un licenziamento illegittimo, un'articolazione degli orari in violazione di legge, eccetera eccetera, è illegittimo in tutto il territorio nazionale, tranne che in quella specifica azienda. E ciò peraltro non per intervento del legislatore, con tutte le guarentigie che voi immaginate, cioè due camere, prima lettura, seconda lettura, promulgazione del Presidente della Repubblica, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. No, per un semplice accordo privato tra soggetti altrettanto privati, neanche di cui non c'è neanche obbligo di comunicazione. Quindi, diciamo, da quella data può accadere che un lavoratore si veda privato di diritti previsti dalla legge, fondamentali per la sua vita, perché immaginate cosa può voler dire il diritto alla stabilità del posto di lavoro, insomma, no? In un sistema dove anche per mettere la museruola al parco a un cane occorrono due pronunce delle camere. Bene, dall'agosto del 2011, con l'articolo 8, in una serie di casi amplissimi che abbracciano la quasi totalità del diritto del lavoro è stato previsto la possibilità di derogare, Carlo, ovviamente derogare, Carlo, in peggio. Scusami se ti interrompo. Tu, dimmi, l'articolo 8 diciamo arriva subito dopo una vicenda che è stata molto esemplificativa di questo ragionamento che stai facendo, che è il caso Pomigliano della Fiat. Diciamo che in un certo senso. Esattamente. Infatti, da dove nasce quel. Allora, l'articolo 8 nasce dall'accordo del 28 giugno 2011. L'accordo del 28 giugno 2011 nasce dal tentativo di CGIL e Confindustria di recuperare la loro debolezza. Cioè, la Confindustria si era persa la Fiat, che voi capite che cosa può voler dire per la Confindustria, perché ovviamente la Fiat, per potersi fare un accordo completamente suo al di fuori di ogni altro vincolo, era dovuta uscire precedentemente da Confindustria, e al tempo stesso la CGIL non riusciva a governare la FIOM. Quindi l'accordo del 28 giugno, su cui poi l'articolo 8 mette il suggello del legislatore richiamando, ed è la prima volta a mia memoria, espressamente l'accordo del 28 giugno, cioè di solito le leggi non richiamano accordi interconfederali tra privati, questo sì, mette il suggello proprio a questo tentativo, peraltro fallito, della Confindustria di invogliare Marchionne a ritornare dentro, e della CGIL di mettere le mutande al conflitto e alla FIOM, e ripoter rigovernare, in qualche modo ricostruire questo tavolo di concertazione perso e mai, è lutto mai elaborato. Senti, praticamente abbiamo ricordato brevemente la vicenda Pomigliano. Questa vicenda, diciamo, questa è proprio la vicenda, esatto. Senza la vicenda da Pomigliano non si può capire che cosa è successo negli ultimi 4 anni. Esatto. Cioè, è esattamente questo, nel senso, diciamo, che poi questo ci porta al nodo della rappresentanza. Esatto. E poi, diciamo, il tentativo di Marchionne, quello che si è concretizzato con l'uscita di Confindustria, gli è servito anche per tentare di lasciare fuori la FIOM dalle aziende Fiat. Questo ha prodotto una vertenza che ha prodotto poi una sentenza della Corte Costituzionale, che diciamo un po' poi anticipa, in un certo senso si inserisce anche in quello che poi sarà l'accordo del 10 giugno. Ci potresti un pochino spiegare in che termini? Assolutamente, questa, diciamo, la sentenza della Corte Costituzionale, stiamo parlando della sentenza 231 del 2013, del luglio scorso, è il lascito più alto di questa stagione di lotta, e in particolare anche del contributo che ha dato la FIOM, dal mio punto di vista, ovviamente. Perché? Ma qua io vi devo fare un piccolo passo indietro che è assolutamente fondamentale, altrimenti non si comprende. Vedete, nel 1970, quando fu fatto lo Statuto dei lavoratori, furono previsti una serie di diritti sindacali minimi di agibilità in azienda: assemblea, bacheca, saletta, permessi, cioè quel minimo senza il quale non si può fare rappresentanza. Inizialmente, c'era una griglia selettiva per dire a chi attribuire questi poteri, che in qualche modo era costruita su CGIL, CISL e UIL, ma nel 1970 era una ricostruzione sincera, perché queste erano le vere forze, organizzate sindacalmente. Poi negli anni 80 c'è stata una grande crisi, una grandissima crisi della rappresentanza, è nato il sindacalismo di base, ma non c'è qua i termini per poterlo raccontare, e poi sono successi due fatti fondamentali. Uno, nel 1993, è stato già detto, cioè CGIL, CISL e UIL, per recuperare in qualche modo una credibilità che avevano perso, hanno introdotto le RSU, cioè rappresentanze sindacali unitarie, elette direttamente dai lavoratori, con una serie di limiti, di vincoli che adesso non c'è tempo di dire, però dove si applicavano? Solo nelle aziende che le volevano applicare, dove i lavoratori le volevano applicare, quindi solo in una parte minoritaria del paese. Nel resto del paese si continuavano a applicare le RSA, cioè le rappresentanze sindacali aziendali previste dallo Statuto dei lavoratori. Su questo è intervenuto un referendum che aveva come ambizione quello di allargare la democrazia, in realtà la ristretta, ma anche su questo non c'è tempo per parlarne. Il dato di fatto incredibile è che con questo referendum del 95, l'unico modo al di fuori dell'RSU per avere rappresentanza era firmare un contratto con il datore di lavoro. Ora voi capite quali possono essere le distorsioni. Perché? Perché intanto il datore di lavoro seleziona a chi far firmare il contratto, e quindi decide in anticipo a chi legittimare e chi non legittimare, con il paradosso che il rappresentante dei lavoratori viene scelto dal padrone e non viene scelto dal lavoratore. Ma Addirittura se poi il padrone ti chiama e tu come sindacato ritieni quel contratto inaccettabile e non lo firmi, a questo punto non sei più firmatario e non puoi più fare l'RSA. Che cosa succede con Pomigliano? Con Pomigliano succede che siccome la Fiat esce da Confindustria non riconosce più l'accordo, perché è solo un accordo, non è una legge, sull'RSU, e al tempo stesso siccome FIOM non ha voluto firmare il contratto non ha più la possibilità di avere neanche l'RSA, cioè i diritti previsti dallo statuto dei lavoratori, e quindi un sindacato probabilmente il più rappresentativo numericamente anche dentro le aziende Fiat si trova completamente privato dalla possibilità di avere una rappresentanza sindacale, per questo doppio motivo: perché Fiat è fuori dalla Confindustria e quindi niente RSU, perché FIOM non ha firmato il contratto, quindi niente RSA. E su questo interviene la Corte Costituzionale con una sentenza fondamentale. Perché? Perché dice: trattare il contratto vale come firmarlo. E qui, diciamo, con questo rimette in gioco la FIOM, perché la FIOM era stata invitata al tavolo e aveva detto no. Ma apre degli spazi molto importanti per tutti. Perché? Perché dice, perché sennò uno potrebbe dire vabbè, il padrone a questo punto manco ti invita a trattare e ha risolto. No, perché dice tre cose fondamentali. La prima cosa è che ciò che conta è la rappresentanza a livello aziendale. La seconda cosa è che se tu sei rappresentativo, questo fa sorgere un vero e proprio diritto a trattare, e se il padrone non ti chiama a trattare tu puoi portarlo davanti a un giudice per ottenere il diritto a trattare e quindi in questo modo acquisire rappresentanza. Ma poi detta a tutti quelli che vorranno definire la rappresentanza tre criteri, e tre criteri fondamentali. Il primo è che è vietato qualunque criterio basato sulla consonanza col datore, perché io devo ovviamente essere consonante con i miei rappresentati, non con la mia controparte. Due, viene vietato qualunque discriminazione tra sindacati con la stessa rappresentatività, quindi se io ho lo stesso numero di iscritti non posso essere trattato differentemente. Tre, dice che qualunque accordo che si possa tramutare in una conventio ad excludendum, cioè i sindacati concertativi che magari sommati sono maggioritari, non possono fare un accordo per, come dire, impedire la rappresentanza al sindacato adeguatamente rappresentativo che è in disaccordo con loro. E con questi tre principi ci si aspettava finalmente che il legislatore facesse una legge. Legislatore non fa una legge, ma le parti sociali fanno l'ennesimo accordo, esatto, ancora più peggiorativo. Esatto, quindi praticamente si arriva all'accordo sulla rappresentanza che rappresenta una sorta di aggiramento di questa sentenza della Corte Costituzionale. Questa rappresenta uno stravolgimento totale. Okay, ci vuoi spiegare il perché, quali sono i punti critici e perché viene concretamente limitato il diritto di sciopero? Certo. Questo accordo del 10 gennaio riprende, ritrascrive sia l'accordo del 28 giugno, cioè quello che aveva originato l'articolo 8 e viene completamente trascritto, quindi quello che prevede le deroghe a livello aziendale dei contratti nazionali in peggio, più viene inserito anche l'accordo del 31 maggio 2013, cioè quello che prevede la possibilità di essere contati, cioè che in qualche modo ci siano dei meccanismi di rilevazione certificata della rappresentanza, quindi quanti sono il numero di iscritti, quanti sono i voti alle elezioni dell'RSU, ma che la limita solo ai firmatari dell'accordo, cioè a CGL, CISL e UIL, che sono gli unici che possono essere contati. Quindi parte da queste due nefandezze e ne aggiunge una terza e una quarta. La terza è: non solo i contratti continuano a essere, possono essere a livello aziendale peggiorativi del contratto nazionale, non solo esclusivamente CGL, CISL e UIL come firmatari, e poi dopo si è aggiunto separatamente UGL e CISAL, ma insomma non solo queste sigle scelte da Confindustria sono le uniche che possono essere contate, quindi le uniche che poi possono avere rappresentanza a livello nazionale, ma aggiunge che anche per poter accedere all'RSU gli altri sindacati, faccio l'esempio di USB, deve per forza aderire a questo accordo, quindi con il paradosso che per poter partecipare alle elezioni dell'RSU deve accettare un accordo che però non conta i suoi voti, quindi può avere il rappresentante ma anche se avrà il 51% dei voti a livello nazionale non potrà mai andare al tavolo nazionale. Ma non si ferma qui, aggiunge uno totale stravolgimento della sentenza costituzionale, perché dice: chi ha trattato non è chi è rappresentativo a livello aziendale, ma chi è rappresentativo a livello nazionale e ha fatto la precedente piattaforma contrattuale, quindi in qualche modo esclude qualunque altro soggetto che non sia CGIL, CISL e UIL dalla rappresentatività aziendale, fosse anche che ha il 100% degli iscritti nella singola azienda. Ma per di più, che cosa dice? Santifica la pace sociale, e quindi dice: qualunque azione o omissione tesa a negare la validità degli accordi fatta da chiunque è passibile di sanzioni anche economiche. Allora voi capite che quando si dice anche economiche vuol dire non solo economiche, quindi sia di sanzioni economiche sia di sanzioni di diverso tipo, che evidentemente non possono che essere quelle che incidono sul rapporto di lavoro dei lavoratori, rimproveri, licenziamenti, tutto quello che voi vi potete immaginare. In più, prevedendo un vero e proprio obbligo di pace sociale, quindi con il rischio, sai, credibile, anche perché in Italia negli anni 60 e gli anni 70 è successo varie volte, che possa a seguito di uno sciopero partire un'azione risarcitoria del datore che chiede il danno per aver bloccato 2, 3, 4 giorni un'azienda, quindi parliamo anche potenzialmente di decine e decine di milioni di euro ai rappresentanti sindacali e sindacali e ovviamente anche ai lavoratori. Questo, diciamo, è lo schema, a cui si aggiunge, proprio come ciliegina sulla torta, che peraltro in caso di contrasti neanche si può andare dal giudice, ma bisogna andare a una speciale collegio arbitrale che sarà composto, per diciamo i suoi 9 decimi, da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, ed eventualmente per un decimo da l'eventuale sindacato, tra virgolette, come dire, destinatario delle sanzioni. Quindi questo, diciamo, è lo schema del 10 gennaio. Perfetto Carlo, sei stato chiarissimo, ti ringraziamo molto per il tuo contributo. Diciamo, in chiusura possiamo dire che dalle tue parole si evince come questo accordo accoglie largamente e acriticamente l'impostazione datoriale relativa al diritto di sciopero fino alla sua virtuale eliminazione. Ti ringraziamo molto, se ci hai molto aiutato a fare più luce su questo accordo. Ti invitiamo a continuare a seguire la nostra trasmissione con i prossimi interventi. Grazie io mille. Ringrazio voi, ciao, grazie. Arrivederci, buona giornata. Giudizi equilibrati, sereni ma decisi, su chi devo ascoltare, su cosa devo fare, su dove non sbagliare, su dove devo andare. Disteso sul mio letto, un sogno come tetto, immagino un reietto, sputare sullo Stato. E il popolo in azione, grida rivoluzione, e i giovani ribelli, spaccare farsi belli. Di fronte al senatore che legiferando muore, perché ha succhiato troppo e non ha sputato un cazzo. Per la gente che lavora, ed intanto il tempo vola. Tra i risparmi di una vita, il tempo passa in fretta e il lavoro è una prigione da cui non si esce mai. Ti chiedono la vita, ma non è mai finita, non devi rallentare, devi collaborare. Se questa barca affonda è colpa di chi rema, e scendere giù in piazza non serve alla nazione. Se poi ti vuoi sfogare nel tattino dello stadio, è sempre meglio che farlo su orario, su salario. Poi 8 ore pese ti faranno dimenticare, per chi batte il tuo cuore, per chi devi lottare, per la gente che lavora, ed intanto il tempo vola. Vola tra i risparmi di una vita, il tempo passa in fretta e il lavoro è una prigione da cui non si esce mai, e tutto attorno si consuma lentamente. Chi comanda non ti lascia più il tempo per decidere di te, oh, per decidere con noi, onda con Corrispondenze Operaie su 87 Nova e Onda Rossa.info. Stiamo ancora parlando dell'accordo sulla rappresentanza, puntata infatti interamente dedicata a uno speciale, a un approfondimento sulla questione, dopo la bellissima, veramente illuminante e chiara presentazione e discussione offertaci dal giuslavorista Carlo Guglielmi. Adesso andiamo a entrare un attimo più nelle questioni più direttamente legate alle condizioni di lavoro e alle lotte, anche parlando di lotte che abbiamo già seguito e di cui abbiamo parlato. Infatti ai nostri microfoni c'è in collegamento Manuela, delegata FIOM della Electrolux presso lo stabilimento di Susegana vicino Treviso. E niente, innanzitutto Manuela, ci senti? Sì, perfetto. Buongiorno. Ciao. Ciao. Bene, allora innanzitutto ti chiederei di fare molto brevemente, perché ovviamente la puntata per questa volta è dedicata ad altro, un rapido aggiornamento su come sta proseguendo la vostra vertenza, prima poi di entrare un attimo nel merito della faccenda. Anche solo un minuto, se per favore ci aggiorni, grazie. Sì, intanto ciao a tutti e vi ringrazio per questo invito. La vertenza in questo momento, noi continuiamo con il presidio e con le mobilitazioni, perché a parte il piccolo passo indietro che ha fatto l'azienda, in questo momento stiamo attendendo che il governo ci convochi per discutere, insomma, della questione riguardante Electrolux, che ancora tutt'oggi non abbiamo nessuna data per l'incontro che il governo ancora 2 settimane fa ci aveva promesso che ci avrebbe convocato. Quindi a tutt'oggi siamo ancora in presidio perché non abbiamo nessuna notizia positiva da questo ambito su quello che è stato detto, insomma, in un primo momento da parte dell'azienda sulla questione riguardante sia la chiusura di Porcia sia la delocalizzazione dei vari prodotti e l'abbassamento e il taglio dei salari. Grazie mille per questo aggiornamento. Allora entriamo subito nel merito dell'accordo. Ti volevo chiedere, innanzitutto sappiamo che voi delegati FIOM siete tutti contrari nel vostro stabilimento all'accordo. Questa è una linea, tra l'altro, che adesso porta avanti anche lo stesso segretario della FIOM Landini, che ricordiamo a giugno invece aveva salutato bene la prima bozza di questo accordo e che invece adesso è talmente contrario da anche creare dei dissensi forti all'interno della stessa CGIL. Ci confermi allora questo dato per cui voi siete contrari, e se ci spieghi anche soprattutto le vostre ragioni di questa contrarietà? Sì, noi siamo totalmente contrari ad una parte di questo accordo, che sostiene anche la linea che abbiamo condiviso al Comitato Centrale con Maurizio Landini, che è la parte che prevede sostanzialmente le sanzioni alle RSU, dove qui si dice sostanzialmente in questo accordo che qualora ci siano dissensi all'interno dell'azienda su accordi fatti a livello aziendale, ci possono essere delle sanzioni per quello che riguarda l'esigibilità degli accordi. Quindi da questo versante noi siamo totalmente contrari a quello che c'è scritto all'interno di quell'accordo. Anche perché di fatto, beh, noi sappiamo, tu adesso cioè appena parlato del fatto che la vostra vertenza sta proseguendo, del fatto che siete ancora in presidio, e noi abbiamo avuto modo di parlare con alcuni di voi, abbiamo anche visto in realtà stesso a Treviso la situazione, ed effettivamente abbiamo visto le vostre modalità di lotta. Avete portato giustamente a dei blocchi delle merci, c'è stata questa famosa dogana operaia con cui selezionavate la quantità e il tipo di merce che poteva passare e non poteva passare, oltre ovviamente ad essere entrati in sciopero a lungo. Quindi diciamo quella clausola che è presente nell'accordo sulla rappresentanza, per cui chi rende inesigibile l'accordo firmato con la propria azienda può essere passibile di sanzioni non solo pecuniarie, ci viene in mente che voi sareste stati pesantemente penalizzati qualora questo accordo fosse stato già ratificato. Sbagliamo? No, è esattamente questo. Oltretutto io vorrei anche specificare che all'interno di Electrolux nel 96 era stato fatto un testo unico dall'allora, insomma, direttore degli stabilimenti, che era Castro, in accordo anche con le loro organizzazioni sindacali, che prevedeva questo tipo di sanzioni, e per cui noi ci siamo già passati da questo ambito con questa specie di accordi, per cui sappiamo quali sono gli effetti, sappiamo quali sono gli effetti non solo sull'RSU ma anche sui lavoratori, perché di fatto insomma le RSU sono la rappresentanza dei lavoratori, e sostanzialmente questo va a bloccare quello che potrebbe essere un miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di salario dei lavoratori all'interno dell'azienda. Per cui giustamente, come dicevi te, in questo ambito, con questa lotta che stiamo portando avanti, noi potremmo essere in questo momento sanzionati come RSU e come rappresentanza nel difendere quelli che è il posto di lavoro, il salario e tutta la nostra dignità che ci sta all'interno del posto di lavoro, insomma. Senti, al di là di voi della FIOM, noi quando abbiamo fatto il collegamento l'altra volta intervenne anche una lavoratrice della UIL che rimarcò fortemente la vostra unità, la vostra determinazione unitaria, insomma, ad affrontare nel modo in cui l'avete fatto la vostra vertenza e la vostra questione. Quindi ti voglio chiedere rispetto agli altri colleghi, sia iscritti quindi agli altri sindacati che anche non iscritti ai sindacati, cosa pensano di questo accordo? Ne avete parlato nel presidio? No, ad essere sostanzialmente sinceri non ne abbiamo parlato di questo accordo. Continua comunque la nostra unità nel respingere totalmente il piano, e questo è un punto importante, perché questo dà forza anche alle nostre iniziative. Sull'accordo, sulla rappresentanza non abbiamo parlato, non siamo entrati nel merito preciso, insomma, di questo quali sono i punti peculiari e negativi, insomma, di questo accordo. Senti, rispetto invece alla vostra dirigenza, sempre del sindacato, quindi territoriale, veneto, regionale, come sono un po' i rapporti, gli umori, anche le opinioni sempre sulla questione e sulla vostra lotta? Beh, noi devo dire che dal punto di vista del territorio facciamo forza su di noi, perché da questo ambito non abbiamo tantissimo appoggio dalle organizzazioni, dalla nostra organizzazione esterna, però comunque noi siamo convinti della nostra battaglia, per cui continuiamo ad andare avanti, perché sappiamo, insomma, che qui ci va del nostro futuro e del futuro dei lavoratori, non solo per quello che riguarda Electrolux ma di tutto il territorio. Un'ultima cosa, è stato citato come esempio, diciamo, come punto di svolta Pomigliano, come luogo in cui alcune di alcuni principi che sono contenuti in questo accordo hanno trovato prima manifestazione, cioè, diciamo, anzi, questo accordo diventa una ratificazione di qualcosa che si è già visto con Pomigliano, il modo in cui la Marchionne si comportò, e che però fu in parte ribaltato da questa sentenza della Corte Costituzionale che abbiamo visto. Ora, il vostro caso è stato citato molto spesso come un esempio determinato, cioè altrettanto come un punto di svolta nelle relazioni industriali, così come lo è stato Pomigliano all'epoca. Quindi diciamo che riteniamo che anche la tenuta della vostra lotta in un qualche modo possa essere altrettanto significativa sull'impatto per le relazioni industriali in Italia. Questo è il motivo anche perché ci sembra molto importante. Quindi questa era più una valutazione generale. Quello che mi viene da chiederti a partire da questa considerazione è se voi state tentando, state sviluppando rapporti anche con altri lavoratori, se siete attenti a quello, agli sviluppi della vicenda di Pomigliano, se come anche state tentando di portare, se avete intenzione, come state portando avanti la vostra lotta perché possa avere un significato politico più generale, visto che già dalla parte dei padroni, dalla parte dell'azienda, questo ce l'ha. Sì, noi stiamo coinvolgendo tutte quante le aziende che stanno nel territorio, quindi anche con varie iniziative. Di certo abbiamo anche la solidarietà di tantissime RSU e lavoratori che vengono a trovarci al presidio, perché hanno capito che la nostra lotta che stiamo portando avanti non è solo per i lavoratori Electrolux ma per una questione generale da questo versante, quindi abbiamo l'appoggio. sulla vicenda di Pomigliano quello che ci contraddistingue, che è la nostra forza, è il fatto che comunque qui abbiamo l'unitarietà di tutta la RSU, cosa che comunque non, purtroppo non è avvenuta in quel sito, in quelle aziende dove c'è stata proprio la spaccatura su quelli che c'erano i contenuti, quindi hanno fatto la divisione da questo. Quella che è la nostra forza è proprio il fatto che riusciamo su questi punti a tenere l'unità sindacale, ripeto, tra le RSU all'interno degli stabilimenti. Un'ultima domanda: quando parlate di appunto allargare, di nuovi contatti, del significato che la vostra avvertenza ha per tutti i lavoratori, quali sono i contenuti politici, cioè quali sono secondo voi le questioni appunto determinanti che vi uniscono e che uniscono gli altri lavoratori a voi, cioè qual è la vera questione in ballo con la vostra avvertenza? E secondo te questo dell'accordo sulla rappresentanza, che per il momento è una battaglia politica che è molto concentrata all'interno della CGIL, se questo dell'accordo della rappresentanza può essere uno di questi punti politici su cui ci si possa unire ad altri lavoratori anche in vista di scadenze future e successive? Beh, il punto principale che ci unisce è proprio la questione riguardante il salario, perché la prima proposta che ha fatto l'azienda era quella di abbassare il salario, di tagliare tutti quanti, diciamo, i cosiddetti, che non li voglio neanche chiamare premi, i cosiddetti salario aggiuntivo che noi abbiamo e ci siamo conquistati nel tempo, e il taglio strutturale dell'orario di lavoro, abbassando sostanzialmente da questo versante il passaggio sia dell'orario di lavoro da 8 ore a 6 ore, pagato 6 ore, quindi il taglio verticale di quello che è il salario. Questo in contrarietà anche con tutto quello che si è portato avanti, e anche il famoso accordo del 93 che prevedeva, insomma, che ci doveva essere una ridistribuzione della ricchezza attraverso i premi aziendali e gli accordi sulla produttività. Questo è il punto che ci accomuna, il fatto che se dovesse passare un taglio di questo tipo all'interno di Electrolux, è chiaro che questo si riflette, come è sempre avvenuto, insomma, per le grosse aziende, anche a livello di contratto nazionale, quindi per le aziende più piccole. Questo è il punto in comune. L'altro punto in comune è quello che qui ci va della dignità dei lavoratori, perché qui non stiamo parlando di un'azienda in crisi, stiamo parlando di un'azienda che fa utili, che proprio in Italia e soprattutto a Susegana fa utili, però vuole spostare, quindi la potenza delle multinazionali che vogliono portare via, fare il bello e brutto tempo a seconda di come si alzano la mattina, se mi passi il termine. Queste sono le vertenze che ci accomunano. Quello che entra poi nell'accordo sulla rappresentanza è proprio questo, perché qui quando si parla sostanzialmente di questo significa fare un passo indietro su quelle che sono le conquiste che abbiamo fatto, quindi significa che se per qualche ragione si va a sottoscrivere o vanno a sottoscrivere un accordo di questo tipo, è chiaro che tu come RSU o come aziende a livello territoriale non puoi rivendicare qualcosa di aggiuntivo rispetto a questo, quindi sei bloccato, perché sennò sei sanzionabile rispetto a quelli che sono i contenuti di questo accordo, e questi sono poi gli effetti che si hanno nelle contrattazioni future, soprattutto nei contratti nazionali, perché quando tu fai accordi di questo tipo poi si riflettono a livello di contratto nazionale, quindi per la collettività. Grazie veramente Manuela, sei stata chiarissima e soprattutto ci hai fatto veramente capire bene il significato di quello che sta accadendo, a partire da ciò che vivete ogni giorno e dalla vostra condizione. È stato quindi anche molto personalmente, insomma, emozionante sentirvi, anche perché ho visto e conosco un po' la vostra situazione e quello che state facendo, e devo dire questo ci ricorda ulteriormente proprio l'importanza di quanto sta accadendo adesso, perché se voi avete dimostrato con i vostri blocchi, con i vostri scioperi, una tenuta su un punto così fondamentale, sulle condizioni di lavoro, il salario, la dignità dei lavoratori, che potrebbe avere una ripercussione su tutto il territorio nazionale e potrebbe ulteriormente dare forte a queste multinazionali che, come dici, fanno il bello e il cattivo tempo, perché anche se fanno utili ne vogliono fare di più. Questo ci dimostra ancora una volta che questo accordo è veramente un problema e pericoloso, perché appunto avrebbe potuto depotenziare una lotta così importante come la vostra. Ringraziamo allora ancora per le tue parole e salutiamo tutti i lavoratrici Electrolux, con cui speriamo di poter continuare a entrare in contatto. Un abbraccio, grazie. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Ciao. eccoci di nuovo in onda su Onda Rossa 87.9, ondarossa.info, con Corrispondenze Operaie, puntata interamente dedicata a un approfondimento speciale sull'accordo sulla rappresentanza. Siamo in collegamento con un lavoratore della Cinformatica, dopo aver parlato con un gislavorista che ci ha fatto un quadro generale sulla situazione, e con una operaia Electrolux delegata FIOM. Siamo con Marco, compagno che molti di voi e noi conoscono, e innanzitutto, come abbiamo fatto con l'Electrolux, vogliamo sapere un breve aggiornamento su come prosegue la situazione lì alla Cinformatica, se ce lo puoi dire brevemente, Marco, grazie. Certo, allora intanto un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, e grazie a voi per avermi chiamato. E detto questo, vabbè, la Cinformatica, diciamo, capita a proposito, perché proprio questa mattina, insomma poco fa, una mezz'ora fa, abbiamo terminato un'assemblea qui sul posto di lavoro in merito alle vicende note dell'intervento di taglio alla spesa pubblica, o conosciuta anche come spending review, e che investono anche noi, essendo noi una società di proprietà dell'ACI, quindi di proprietà dell'ente pubblico, pur essendo noi una società meccanica, e quindi appunto siamo individuati fra i soggetti da sacrificare per rilanciare l'accumulazione. E quindi appunto in particolare abbiamo aperto una vertenza, un confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito a una riorganizzazione dei servizi di motorizzazione civile ACI, che appunto potrebbe investirci molto pesantemente in termini di conservazione dei posti di lavoro e delle condizioni di lavoro stesse, per cui appunto da tempo chiediamo che si apra questo confronto. Il Ministero ha finora un po' nicchiato, da un lato si è reso disponibile, però poi quando si tratta di andare al dunque questo appuntamento non si realizza mai. Insomma, in assemblea abbiamo deciso con una votazione all'unanimità che giovedì prossimo, quindi 13 marzo, andremo a manifestare sotto il Ministero dei Trasporti dalla mattina alle 9, più o meno per l'intera giornata, quindi questa è così, tanto per informare della situazione. Grazie Marco. Allora guarda, abbiamo parlato finora sia in termini generali che poi più in dettaglio con una voce della, appunto, operaia FIOM, degli effetti che questo accordo avrebbe su operai appunto come lei, iscritti a sindacati concertativi. Ora con te vorremmo capire meglio nel dettaglio come questo accordo, che effetti avrebbe per lavoratori iscritti a sindacati di base o comunque non concertativi, che sono appunto FIOM, CGL, CISL e UIL, che sono considerati nell'accordo come i principali referenti e come principali rappresentanti dei lavoratori. Che effetti avrebbe questo accordo su tutti quelli iscritti ai sindacati di base, sulle loro azioni, le loro vertenze, le loro pratiche di lotta, e anche sui lavoratori più in generale auto-organizzati? Va bene, diciamo che chiaramente la domanda che tu fai è abbastanza complessa, perché poi si tratterà di vedere concretamente come si realizzeranno questi accordi, perché appunto, visto che l'accordo sulla rappresentanza rimanda poi ai specifici contratti nazionali la definizione, diciamo così, delle sanzioni per chi non si attiene alla nuova normativa. Quindi, diciamo, premesso questo, quindi la risposta è più di ipotetica che non già verificata sul campo, insomma. E diciamo che in generale io credo che quando c'è un restringimento degli spazi di agibilità all'interno del mondo del lavoro, questo comunque ha degli effetti negativi su tutti, a prescindere che questi effetti possano assumere delle forme differenti a secondo della posizione che uno assume, però sicuramente non è mai un buon segno quando si restringono gli spazi di agibilità. Dopodiché è vero, teoricamente ad oggi l'accordo sulla rappresentanza, e non potrebbe essere altrimenti essendo un accordo fra le parti e non una legge, definisce le responsabilità e quindi le eventuali sanzioni per le organizzazioni sindacali che tu hai chiamato concertative, ma in generale possiamo dire per quelle organizzazioni sindacali che sono firmatarie di contratto e che quindi rientrano nell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, perché poi alla fine il punto è quello, cioè lo Statuto dei Lavoratori all'articolo 19 definisce quali sono le organizzazioni sindacali che possono avvalersi concretamente dei diritti sindacali, quello quindi del diritto di indizione d'assemblea, del diritto dei permessi sindacali, alla bacheca, insomma alle varie cose che sono previste, e di conseguenza l'accordo si colpisce in primo luogo eventuali dissenzienti all'interno di queste organizzazioni, perché l'accordo, appunto, come dicevo, non poteva essere differentemente, perché altrimenti avrebbe dovuto prevedere esplicitamente delle deroghe alle leggi esistenti, non può avere il potere di intervenire sui singoli lavoratori né su quelle organizzazioni sindacali che si tengono fuori dal contesto di riferimento. Però allo stesso tempo questa cosa ha una valenza differente se parliamo degli effetti sulle organizzazioni del sindacalismo di base piuttosto che degli effetti su, diciamo, ipotetici comitati auto-organizzati, comunque forme di espressione diretta dei lavoratori. Perché? Perché per quanto riguarda le organizzazioni sindacali di base è normale, insomma, che il loro obiettivo sia quello di accrescere l'associazione all'organizzazione sindacale stessa e quindi aumentare gli iscritti, aumentare la propria presenza, la propria forza, avvalendosi degli strumenti propri dell'attività sindacale, quindi dalla cessione di credito, cioè quello che sarebbe la trattenuta in busta paga per la tessera sindacale, a, appunto, i permessi sindacali e così via. La normativa stabilisce che per poter accedere, cioè normativa, questo accordo che è stato firmato stabilisce per poter accedere a questo insieme di elementi bisogna sottoscrivere l'accordo in questione e quindi dichiarare di attenersi all'accordo stesso, e attraverso quello a quel punto si può partecipare alle elezioni dell'RSU piuttosto che alle altre attività che citavo. Quindi di conseguenza, siccome poi per quella che è la realtà dei fatti, normalmente, insomma, nella gran parte dei casi le organizzazioni sindacali di base risultano minoritarie all'interno della rappresentanza sindacale aziendale e conseguentemente sarebbero sottoposte a quel punto alle eventuali sanzioni presenti all'interno dell'accordo. Ecco, dicevo, quindi magari non sono stato chiarissimo, però da questo punto di vista si capisce che questo diventa invece un ostacolo allo sviluppo del sindacalismo di base, e non a caso, insomma, il sindacalismo di base è fra i soggetti che più fortemente già si sono attivati contro questo tipo di accordo. E è ovvio, paradossalmente uno può dire, va bene, se tu non decidi di rinunciare a questa serie, diciamo, di strumenti utili al lavoro sindacale, quindi non sottoscrivi l'accordo, non partecipi quindi all'eventuale elezione dell'RSU, eccetera, c'hai mano libera, nel senso che non sei soggetto alle limitazioni e quindi in teoria puoi indire scioperi e quant'altro senza che questo ti possa creare nessun problema. Però, appunto, dicevo, se così fosse, se questa fosse la strada che viene perseguita, e non mi sembra che infatti che sarà così, a quel punto diciamo che la Costituzione, che tutto il lavoro che è stato fatto in questi decenni dal sindacalismo di base per ottenere un riconoscimento anche formale della propria presenza nei luoghi di lavoro sarebbe di fatto annullato, insomma, quindi ho seri dubbi appunto che se vada in questa direzione. Quindi scusami Marco, in sostanza praticamente abbiamo un sistema che si irrigidisce perché di fatto elimina quelle possibilità di formalizzazioni, di riconoscimento che il sindacato di base, tu dici, ha tentato di costruire negli ultimi anni, e che contemporaneamente limita di gran lunga, appunto con la famosa clausola che abbiamo più volte nominato oggi, di sanzioni non solo pecuniarie per chi viola l'esigibilità degli accordi, limita anche le azioni degli stessi iscritti ai sindacati confederali. Quindi un sistema che si irrigidisce molto e, come dici tu, quindi fa da esempio in negativo per tutte, riducendo gli spazi di agibilità a tutti i lavoratori e le lavoratrici, che però contemporaneamente, tu hai detto, lascia paradossalmente una mano più libera alla fine, cioè potrebbe avere un risvolto paradossale, che sempre così noi sappiamo, insomma, tutto quello che tenta di fare il capitale per controllare alla fine ha degli effetti che insperati per lui e sperabili per noi. Un sistema che quindi appunto si irrigidisce, però diventa, quindi rischia anche di diventare più fragile e lasciare spazio a delle forme auto-organizzate di lotta, anche perché ovviamente questo accordo, appunto essendo un accordo tra le parti, non essendo legge nazionale, di certo non può modificare il diritto di sciopero, che comunque è tutelato dalla Costituzione. Sei d'accordo con questa analisi? Sì, sono d'accordo fino a un punto, nel senso che poi la parte finale, quella che pure chiaramente io l'avevo detta, però perché non era completato il ragionamento, quella sul fatto che questo però lasci più paradossalmente più libertà invece ai lavoratori di organizzarsi in maniera autonoma, visto che tanto altrimenti sarebbero invischiati nelle gabbie dell'accordo sulla rappresentanza se assumessero altre forme di organizzazione, è, diciamo, formalmente corretto, ma io ritengo che questa operazione sia il preludio invece a un intervento di carattere legislativo rispetto alla tematica dello sciopero, ma non lo dico solo in virtù del fatto che diciamo, essendo schierati insomma dalla parte dell'interesse dei lavoratori, abbiamo facilmente l'idea di vedere del male sempre nelle controparti, ma lo dico a partire da quella che è l'esperienza della legge 146, cioè se ci ricordiamo la legge 146 del 90, quella che limita fortemente la possibilità di accedere allo strumento dello sciopero e i lavoratori, diciamo, dei servizi pubblici essenziali. Poi sappiamo bene quanto questa dicitura sia forzata in allargamento costantemente, da ultimo ricordiamo tutti la vicenda di Granarolo, no? Per cui pure gli yogurt da Granarolo diventano un elemento essenziale per la sopravvivenza dell'umanità e quindi si deve impedire ai lavoratori di scioperare. Dicevo, quella legge là, che fu poi approvata nel 90, è stata preceduta da una serie di codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero firmati da CGIL, CISL e UIL attraverso le proprie categorie, le proprie federazioni di categoria, nei contratti nazionali furono fatti nel contratto dei trasporti piuttosto che in quello della sanità o in altri che ora non ricordo. Organizzazioni patronali, organizzazioni sindacali si accordarono su un codice di autoregolamentazione che anche in quel caso evidentemente impegnava le organizzazioni sindacali. Già lì, essendo inserito nel contratto nazionale, tendeva ad estendersi ai lavoratori tutti, però chiaramente aveva sempre il vincolo del fatto che non esistesse una norma legislativa che regolamentava il tutto, e quindi c'era sempre la possibilità di appellarsi, come ricordavi bene te, all'articolo 40 della Costituzione, e quindi praticare lo sciopero a prescindere dal codice. Però quei codici non furono altro che la definizione da parte dei parti sociali di quello che poi doveva essere il dettato legislativo, e così è stato, cioè sostanzialmente la legge 146 in gran parte accoglie questi codici di autoregolamentazione e gli dà una forza legislativa e una loro diciamo più puntuale definizione. Quindi quello che credo possiamo tranquillamente ritenere è che un processo simile riguarderà anche tutto quanto il mondo del lavoro privato, e quindi che queste norme che oggi riguardano solo chi le firma, e comunque già questo non è poco, perché pure un comitato auto-organizzato, faccio esempio. Marco, scusa, praticamente visto che siamo anche in conclusione di questa trasmissione, un po' anche dal dibattito che è uscito fuori da questa ora abbondante di trasmissione, abbiamo visto come in fondo questo accordo poi rappresenta, diciamo, uno slancio, un grosso slancio in avanti verso un processo di eliminazione del diritto di sciopero. Cioè, è una cosa che lo possiamo dire un po' dalle due parole, si è capito questo. Se in questo momento questo, diciamo, limite forte al diritto di sciopero viene ufficializzato per quei sindacati che partecipano alla trattativa e quindi poi sono vincolati dalle regole dell'accordo stesso, e quindi lascia fuori un po' le parti auto-organizzate che magari non hanno partecipato alla trattativa, evidentemente è un primo passo per cancellare più in generale il diritto di sciopero in Italia. Sei d'accordo con questa impostazione? Assolutamente sì, cioè, proprio almeno quello che è facile prevedere, poi vedremo, magari la realtà ci smentirà per una volta in positivo e chiaramente ne saremo in caso contenti, insomma, però questo è quello che mi sembra se ne possa ricavare, insomma. Sì. Anche diciamo la prima intervista che abbiamo fatto al Giusto Lavorista, alla fine l'aspetto sostanziale è uscito questo, che comunque rappresenta un po' questo passaggio abbastanza importante. Va bene Marco, noi ti ringraziamo per il tuo chiarimento, il tuo contributo, il tuo contributo all'analisi che ci ha permesso di fare un ragionamento un po' più politico di questo accordo. Naturalmente ti invitiamo a farci sapere del proseguimento della vertenza dell'ACI Informatica e ti salutiamo. Ok, ringrazio a voi per lo spazio, un saluto a tutti e a tutte. Ciao Marco, grazie. Ciao, ciao. Allora, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata speciale, diciamo, sull'accordo sulla rappresentanza di corrispondenze operaie. Speriamo sia stata, oltre che di vostro gradimento, anche abbastanza delucidatoria su che cosa comporta questo accordo. E mi chiedono, mi dicono, mi avvisano di salutare non Dario ma la mamma di Dario, che continua ad ascoltare corrispondenze operaie nonostante l'assenza appunto di Dario, che è fuggito via. E non so, salutiamo Luca, voleva aggiungere qualcos'altro? No, volevo solo dire che visto che abbiamo fatto il collegamento con Marco, c'è un'altra trasmissione sempre oggi come ogni lunedì sul mondo del lavoro, che è il Kabuki, sempre su Radio Onda Rossa alle 6. Grazie. Bene, per questo con questo è tutto, ci salutiamo, ci risentiamo con corrispondenze operaie lunedì prossimo. Buona giornata a tutti e a tutte. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò non mi farò peccare. Mi hanno regalato sogni troppo cari per non rischiare, nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. Sogni